Buonasera e bentrovati e bentrovate. Siete all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa e questa è Entropia Massima. Questo lunedì abbiamo come ospite Alberto, che ci parla di decrescita, e in particolare all'interno del filone della decrescita oggi Alberto ci parlerà di Ivan Illich e del suo saggio sulla convivialità, un saggio del 1973, giusto Alberto? Allora, possiamo senz'altro cominciare dandoti la parola. Bene, io stasera volevo fare un piccolo richiamo dell'incontro scorso, perché il tempo scorre troppo fra un incontro e l'altro, e quindi volevo dire qualche parola ancora su Gheorghescu Regen, perché ci sono dei punti di contatto tra quello di cui parleremo questa sera e vorrei sottolinearli. Allora, vi ricorderete che Gheorghescu Regen ha affermato, cioè il suo punto di partenza, il punto sul quale si è soffermato a lungo, è: ogni attività economica comporta l'irreversibile degradazione di quantità crescenti di materie e di energia. Allora, questo è il dato di fatto, e questo introduce immediatamente il concetto di limite per il sistema economico dominante. Però è un'analisi basata molto sulla biologia, basata molto sulla biosfera, cioè sull'equilibrio del pianeta. E l'altro elemento importante è che ha dato il nome, se vi ricordate, ha dato il nome al suo tipo di analisi di bioeconomia, quindi con un collegamento netto, preciso, tra i meccanismi economici e quelli che sono i meccanismi che alimentano e regolano la vita sul pianeta. Poi ha fatto, se vi ricordate, una affermazione molto pesante, molto che noi continuiamo a avere molte difficoltà ad accettare, cioè quando dice: la fede nel progresso tecnologico proiettata in un futuro vago non è accettabile. Cioè, in pratica, tradotto in termini più semplici, quando di fronte alle difficoltà ambientali, di alimentazione della popolazione mondiale, di qualunque tipo di difficoltà internazionale, globale, qualcuno dice, risponde dicendo: sì, però il progresso tecnologico ci fornirà le soluzioni. E ora, questa cosa già nella mente di Gheorghescu Regen era molto chiaro che fosse inaccettabile, cioè non è questa la possibilità di rapporto con il... Perché sottolineava già allora il fatto che ogni volta che c'è un'innovazione tecnologica, in realtà si è visto e si continua a vedere ancora oggi che c'è contemporaneamente un aumento nell'uso sia dell'energia che delle materie prime di base. E quindi in sostanza è una specie di ruota che continua a girare e che non trova la via d'uscita, compreso il criceto dentro la ruota, insomma, no? Nel senso che c'è questo sistema dominante che funziona in questo modo qua, o cerca di funzionare in questo modo. Allora, e l'ultimo punto che mi volevo ricordarvi è che c'è un'affermazione molto netta che fa nel suo testo, che dice: tutte le teorizzazioni che abbiamo fatto nel mondo occidentale non valgono per i paesi del cosiddetto terzo mondo. E questa è un'affermazione anche qua molto pesante, nel senso che evidentemente i meccanismi ai quali il terzo mondo è sottoposto sono sicuramente quelli che abbiamo anche noi, che conosciamo perfettamente. Quindi c'è questa estensione dell'influenza, dell'incidenza dei meccanismi economici dominanti, però le soluzioni che noi cerchiamo di trovare o le formule che noi cerchiamo di proiettare per un futuro sicuramente non sono adeguate per i paesi attualmente ancora sottosviluppati, o alcuni di questi cominciano a essere realmente in via di sviluppo, però è uno sviluppo pericolosissimo, nel senso che è uno sviluppo analogo a quello che hanno sperimentato e stanno sperimentando i maggiori paesi occidentali. E quindi questo che cosa significa? Significa aggravamento continuo e crescente dei danni ambientali, degli squilibri economici, Dimmi, dimmi, poi... Sì, stavo pensando a quell'immagine emblematica di Pechino sommersa da nubi di smog, certo, con le automobili bloccate, per cui le milioni, certo, di persone, ore e ore, per cui esatto, già si stanno finalmente, meno male, preoccupando, sì, di come questa produzione di automobili, già adesso che solo una minoranza, tutto sommato, della popolazione l'ha potuta comprare, quale catastrofe avverrebbe se, non so, il 50% dei cinesi avessero un automobile. Non casualmente il governo cinese ha già posto un blocco alla entrata di nuove auto, e questo dovrebbe mettere molto in discussione le proiezioni di vendita sui mercati internazionali di Fiat, marchionni vari, cioè lì ci sarà un controllo governativo molto più pesante di quello che noi possiamo immaginare, perché non l'abbiamo mai sperimentato. E quindi c'è un'altra cosa che forse sto cominciando a vedere in questi giorni, ci sono delle correnti di alta quota, per cui che spostano quello smog verso gli Stati Uniti, e quindi pare che, cioè, c'è un dato così, insomma, per capirci, che circa il 20% dell'inquinamento degli Stati Uniti deriva in sostanza da un inquinamento prodotto in Cina. Adesso queste cifre probabilmente sono così tutte da vedere, da studiare, eccetera eccetera, però insomma sembra strano, però paesi così lontani sono coinvolti nello stesso meccanismo e nessuno può far nulla data la situazione dei rapporti internazionali attuali. Adesso, oggi, questo era solo per un piccolo riassunto per ricollegarci, però poi vedrete che ci sono dei collegamenti. Oggi parliamo di uno degli altri precursori, quelli che hanno anticipato certe analisi, nel senso che parliamo di Ivan Illich, che è nato nel 1926 ed è morto nel 2002. La sua produzione è fondamentale, però è già avvenuta intorno agli anni 73-74, qualche anno prima aveva già scritto dei testi particolarmente importanti come Nemesi Medica, cioè tutta la riesame, la capovolgimento delle teorie relative al settore sanitario, delle cure, delle medicine e via dicendo. E questo signore era un sacerdote che però nel 69 ha cominciato a distaccarsi dalla sua chiesa, nel senso che le critiche che faceva erano molto pesanti, eccetera eccetera. Quindi questa è una persona estremamente interessante dal punto di vista del pensiero, dell'evoluzione del suo pensiero, e soprattutto ci sono delle cose che devono essere sottolineate così prima di cominciare, nel senso che fa delle descrizioni di situazioni, prospettive, eccetera, che sono ancora valide oggi e assolutamente anticipate rispetto a quello che riusciamo ancora non in maniera diffusa a comprendere oggi dei meccanismi nei quali siamo immersi. Quindi queste sono queste persone con queste capacità, questa lucidità mentale, no? E le frasi sono terribili, perché all'epoca non c'erano i dati sui danni ambientali, no? Cioè era una fase completamente diversa, però il peso di questo tipo di problemi era chiaro almeno a queste persone. E poi questo ha fatto un lavoro, questo personaggio ha fatto un lavoro estremamente importante di diffusione, di volgarizzazione, è stato varie volte in Italia, andava continuamente in convegni, pubblicava articoli, insomma, cioè era uno che, oltre a pensare, si dedicava anche al tentativo di passare certe nozioni. In che periodo faceva questa diffusione di cui parli? Beh, per ogni libro, poi cominciava ad andare in giro in Italia. Credo che il convegno che ha fatto a Lucca, appunto nel 2002, è stato praticamente l'ultima iniziativa nazionale, diciamo nazionale o internazionale dal suo punto di vista, alla quale ha partecipato, e poi aveva una malattia di queste gravi, per cui a un certo punto ha ceduto. però insomma non si era risparmiato nei mesi e negli anni precedenti, insomma, quindi ha esercitato sicuramente un ruolo di, come dire, non solo di precursore, ma proprio di seminatore di dubbi, di tentativi, di curiosità, di stimoli a ricercare, e quindi c'ha un ruolo molto probabilmente più importante di Georgesco Regan da questo punto di vista, perché appunto aveva questa voglia di far conoscere, di far sapere, di passare le sue intuizioni. Allora, cosa si può dire? Intanto stasera vorrei parlare in particolare della sua opera, credo sia la sua opera base, che si chiama La convivialità. E devo subito precisare che, siccome usa un termine preso da varie lingue, cioè spagnolo, inglese, eccetera, non è esattamente equivalente al termine italiano, cioè conviviale per noi è quando ci si riunisce per mangiare insieme, cioè c'è un termine che viene usato moltissimo, ma in questa accezione. E lì invece l'accento è posto, appunto guardando le parole originarie, è posto proprio sulla vivere insieme, cioè convivere, cioè vivere insieme, e quindi la necessità di avere una società che si basa esattamente sul fatto che tutti possono, come dire, compartire, dividere, condividere le attività sia personali che sociali. E quindi convivialità viene inteso in questi termini, cioè come una desiderio di convivenza. Sì, forse è una via di mezzo fra convivenza e condivisione, perché convivenza è un po' passivo, no? Cioè uno si tollera, no? Ecco, invece condivisione significa che ci sono dei valori condivisi da molti e che possono essere però vissuti, agiti, e quindi tutta la sua descrizione di questa società alternativa è basata su questo concetto. Quindi questo lo dico subito, perché altrimenti poi si creano dei pasticci nella interpretazione e nella comprensione. È d'accordo, allora facciamo subito una pausa musicale prima di entrare nel vivo del discorso. Ricordo il numero di telefono per intervenire, 06 49 17 50. Mentre stai chiudendo gli occhi, mentre scavi dentro te, e il rumore si dissolve, senza farsi attendere, senza farsi vincere, ti sfioro con le dita e voglio che sia tu ad addormentarti, lasciando che il sonno liberi. Tu, soltanto tu, chiudi i tuoi occhi con i miei. Tu, soltanto tu, senza paure. Tu, soltanto tu, rallenti il tuo battito con me. Tu, soltanto tu, dormi e poi sognami. Mi sveglio con te, vivendo e volendo ogni giorno di più, senza più limiti. Non fermarmi, non bruciarmi, non c'è motivo, sai, per mettere in dubbio ciò che hai. È meglio lasciarsi avvolgere. Soltanto tu, dormi e poi sognami. è meglio lasciarsi avvolgere. Allora riprendiamo la trasmissione, riprendiamo il discorso sulla decrescita e sui Vanilic, ma prima vi ricordiamo che oltre ad intervenire allo 06 49 17 50 c'è un'altra forma di interazione che è attraverso il sito. Finalmente abbiamo il nostro spazio su www.ondarossa.info. Se cercate in palinsesto e trovate la trasmissione Entropia Massima potrete leggere le notizie, ma soprattutto se volete inviarci del materiale da pubblicare potete utilizzare la nostra casella entropiamassima@ondarossa.info. Allora Alberto, riprendiamo il discorso dove l'avevamo lasciato, quindi dalla convivialità intesa come un qualcosa in più di convivenza, un mix fra convivenza e condivisione. Sì, penso che sia, diciamo in termini italiani, credo che sia questa la traduzione corretta che si può dare, anche se i libri sono intitolati in questo modo, insomma, quindi con alcuni rischi al momento dell'acquisto. Allora, l'analisi che viene fatta è il punto di partenza, perché quello che è un po' la distinzione è che Illich parte dalla constatazione che il meccanismo industriale è inaccettabile, intollerabile, e cerca di descrivere l'alternativa in misura molto... quindi non ha molto non sente molto il bisogno di dimostrare che quali sono, cioè di fare delle teorie sulla intollerabilità del sistema. Non lo dà per scontato, lo spiega, lo esplicita con chiarezza e dice che è proprio il meccanismo di tipo industriale che porta al peggioramento dell'uso nelle risorse, eccetera, che è una parte, però soprattutto è un fenomeno di strumento creato dall'uomo che poi per sopravvivere, per espandersi, per continuare la sua illimitata crescita, trasforma l'uomo in uno schiavo. Allora tutte le sue descrizioni sono dirette a far emergere questo, cioè non tutte, scusate, la prima parte, diciamo, delle sue descrizioni sono dirette a far emergere questo aspetto. Mi viene una domanda: quando lui parla di meccanismo industriale si riferisce al meccanismo industriale della crescita infinita, cioè sostanzialmente al meccanismo del modello di produzione capitalista, no, o anche, se vogliamo, di quel modello che fu il cosiddetto socialismo reale, che però assumeva le stesse finalità, anche se diciamo il discorso sul profitto era diverso, ma in realtà la produzione tendenzialmente infinita era la stessa, quindi no, non arrivava al punto di dire no allo sviluppo industriale in assoluto. È possibile per lui, era possibile per lui uno sviluppo industriale compatibile con per esempio il discorso della decrescita? No, aspetta, perché c'è il passaggio da fare, questo, quindi la risposta è, ti do una risposta, un primo pezzo di risposta. Cioè c'è un punto proprio in questo libro in cui lui fa il paragone con il meccanismo di tipo socialista, sovietico, eccetera, e va via tranquillo, cioè dice ha esattamente gli stessi effetti, perché era organizzato in una certa maniera, ha esattamente gli stessi effetti del sistema capitalistico dominante nell'Occidente e i suoi effetti sugli altri paesi. Quindi cioè, ma è molto rapido, cioè non lo dà proprio assolutamente per scontato. Il problema è che quello dove va più a fondo è cercare di capire che tipo di meccanismo è stato messo in moto, quindi nei confronti dell'essere umano, degli esseri umani. Quindi molte descrizioni tendono a far capire questo passaggio, cioè l'aumento dei consumi, il lavoro concepito in un certo modo, eccetera, eccetera. Ognuno di questi meccanismi, sono svariate decine, tendono tutti quanti a rendere passivo l'essere umano, a impedire le sue attività creative, eccetera, eccetera. Quindi lui fa una descrizione molto accurata di tutto questo aspetto. E sono vari aspetti, cioè tiene a precisare che gli esseri umani sono stati sottoposti a questi, io continuo a chiamarli meccanismi, perché lui pure parla di mega macchina, quindi insomma stiamo parlando, usando più o meno gli stessi termini, quindi c'è questo tipo di rapporto. E questo che cosa ha fatto? Ha fatto sì che anche le soluzioni che si è cercato di elaborare, cercando di dire come si fa a modificare gli effetti del meccanismo dominante, sono coinvolte nella logica stessa. C'è un discorso, fa un esempio molto interessante sulla guerra del Vietnam, cioè dice: ci sono delle persone che dicono, se non avessimo speso, specialmente negli Stati Uniti, non avessimo speso 20 miliardi di dollari dell'epoca, quindi una cifra molto grande, per la guerra, potevamo, ci sono due ipotesi, cancellare la povertà nel nostro paese, Stati Uniti, oppure decuplicare gli aiuti ai paesi sottosviluppati. Ecco, lui su questo spara a zero, visto che stiamo parlando del Vietnam, insomma uso un termine bellico, però perché dice non ha senso questo tipo di ipotesi, questo tipo di tentativi o di idee che vengono fatte circolare, perché sono i meccanismi stessi che sono in atto, che sono in funzione anche quando si fanno queste soluzioni. Quindi qualunque intervento contro la povertà si sarebbe tradotto soltanto in un aumento dell'uso delle risorse, in un aumento dell'uso dell'energia, eccetera, eccetera. Nel terzo mondo si sarebbero semplicemente esportati i meccanismi di espropriazione, di sfruttamento tipici del sistema dominante. Quindi il problema, come poi in parte è successo, no? Come sì, no, era tutto in corso già, però nel 73 era molto interessante fare un'affermazione di questo genere, e il punto era quindi far capire la natura intrinseca, cioè la parte intrinseca della natura di questi meccanismi. E quindi lui aveva l'idea, da questo punto di vista era molto limpido, e quindi in sostanza escludeva qualunque tentativo di cambiare gli effetti senza cambiare il meccanismo che li aveva causati. Questo può sembrare banale, però moltissime soluzioni che vengono adottate nei paesi occidentali in realtà si vengono presentate come una capacità di modificare radicalmente il meccanismo, e in realtà questo viene lasciato sussistere. La green economy, di cui abbiamo già cominciato a parlare, è uno di questi tentativi. Quindi bisogna sempre stare molto attenti quando vengono presentate queste soluzioni. E quindi questo è un primo aspetto. Quindi lui da questo deduce poi la necessità di identificare immediatamente una serie di limiti da porre allo sviluppo. E anche qua lui non affronta in sostanza l'analisi che poi sarà fatta, vedremo nei prossimi giorni, da Latouche sul concetto di sviluppo, eccetera. Però dice subito è lo sviluppo illimitato ad ogni costo, eccetera, che deve essere affrontato. E quindi questo è il primo passaggio. Appena dice, dopo aver detto questo, lui fa una prima presentazione, una prima definizione. Dice questo: conviviale è la società in cui prevale la possibilità per ciascuno di usare lo strumento per realizzare le proprie intenzioni. Cioè, in sostanza, è una rivendicazione della libertà dell'essere umano, del suo potere creativo, e il fatto di non essere assoggettato allo strumento creato. Cioè, in sostanza, fa capire che bisogna rovesciare completamente i termini della questione, altrimenti gli esseri umani, presi isolatamente, individualmente, continuano a essere vittime dello stesso strumento che hanno, malgrado tutto, nella storia messo in piedi. Quindi c'è questo cambiamento, come dire, che viene proposto, e dire attenzione, dobbiamo proprio sovvertire completamente la logica, altrimenti non ci riusciamo. Questo è il, diciamo, il punto di inizio della, del passaggio. E il punto qual è? Quello che lui sottolinea molto. Lo strumento, cioè la produzione industriale, lui usa continuamente produzione industriale, industrializzazione, cioè è il suo obiettivo, diciamo, l'antagonista, diciamo, in questo senso, è la struttura produttiva industriale. Quindi, in cui dice, questa è stata concepita ipotizzando che una macchina potesse rimpiazzare lo schiavo. Cioè, questo era stata presentata nei secoli, no? In questi termini. E in realtà, dopo aver superato una certa soglia di questa industrializzazione nel passato, la macchina rende l'uomo schiavo. E quindi questa è la logica contro il quale viene presentato il discorso della convivialità. Ed è esattamente quello che è successo, perché, diciamo, con l'andare avanti dell'industrializzazione, esatto, le ore di lavoro non sono diminuite, anzi sono aumentate. Volevo chiederti, dimmi. Scusami, per evitare un possibile equivoco, Illich però non è che con questo propone una sorta di ritorno all'era preindustriale, al primitivismo? Anzi, assolutamente no, nel senso quello che... adesso intervengo con le mie parole, no? Prima stavo più o meno cercando di citare quello che descrive in maniera piuttosto dettagliata è che l'uomo deve riprendere il controllo degli strumenti già esistenti, cioè non fa nessuna ipotesi di ritorno, di semplificazione, di ingenuità, di approccio, eccetera, eccetera. No, dice semplicemente che bisogna riprendere il controllo. Quindi in sostanza, va bene, poi andiamo avanti. Poi... E allora facciamo un'altra pausa musicale. Ritorniamo in diretta per essere ancora più chiari. Una delle definizioni che dà, dice, la convivialità è il contrario della produttività industriale. Quindi attenzione, non della produzione, ma della produttività, cioè del fatto che il sistema tende ad aumentare continuamente la produttività a scapito degli esseri umani. E quindi Marchionne non è conviviale, eh? Non è assolutamente, cioè è proprio la negazione totale, no? Però, a parte la battuta, io andrei a vederlo questo tipo di discorso, perché sarebbe da prendere il libro e andare a vedere tutte le affermazioni fatte, il modo di trattare, le condizioni dei contratti, eccetera, eccetera. È sempre il meccanismo denunciato da Illich, no? Quindi non sono cose, come dire, nuove o nuove strategie, è solo che questa volta, come dire, il meccanismo è assolutamente aperto, no? Cioè è esplicito e è anzi presentato come modello per tutte le altre imprese e via dicendo. Però è sempre quello, cioè il discorso di contrapposizione è esattamente quello. E viceversa, lui dice, la convivialità è il passaggio dalla ripetizione della carenza alla spontaneità del dono. Questo è un passaggio piuttosto importante, perché lui dice il sistema produttivo, il sistema industriale cerca sempre di far nascere delle sensazioni di carenza in maniera da poter mettere in produzione un altro bene, un altro oggetto che supplisca a quella carenza. Appena è stato venduto un certo numero di copie di quell'oggetto, di quel prodotto, si crea un'altra carenza, si identifica un'altra carenza e si cerca il prodotto per poter supplire a questa carenza. Quindi è in sostanza proprio la logica interna del consumismo, no? Cioè quella che anima e propone e moltiplica il consumismo. E viceversa, la convivialità, dice, si passa alla spontaneità del dono, cioè se qualcuno ha voglia o bisogno di qualcosa, qualcun altro glielo offre. Quindi eliminando completamente tutti i passaggi monetari, tutti i passaggi, e la produzione viene fatta esclusivamente perché l'altro ha espresso un desiderio. Volevo chiederti, la sua critica del denaro, è una critica negazionista oppure ammette? Io ho l'impressione che non l'abbia approfondito particolarmente, se non sbaglio, almeno non credo di aver letto tutto, quindi posso sbagliare, però non si è basato su questo, si è basato proprio sulla sottolineatura del processo di liberazione dell'uomo, in sostanza. Questo si spiega anche con le sue matrici religiose, eccetera. Dico, però non si è perso nelle cose un po' economicistiche del ruolo del denaro, eccetera, si è concentrato sulla descrizione di come potrebbe essere la società alternativa. Quindi ha sottolineato tutta una serie di cose. Per esempio, sottolinea questa cosa: i tre valori base della società conviviale dovrebbero essere sopravvivenza, equità, autonomia creatrice. Quindi, se ci pensate bene, significa i bisogni essenziali, la sobrietà, cioè la soddisfazione dei bisogni fondamentali. Quindi la parola sopravvivenza credo debba essere letta in questo senso. La equidistribuzione, cioè il fatto che tutti devono essere ammessi alla distribuzione e tutti possono partecipare alla realizzazione. E soprattutto l'autonomia creativa, cioè far diventare assolutamente fondamentale, caratterizzante di una società, la capacità creativa di tutti gli uomini o le donne che fanno parte di quella società. Questo forse è l'elemento più innovativo, perché se gli altri due, in qualche modo da altri teorici, sono stati presentati come un obiettivo importante, questo terzo è un po' diverso, no? Credo di sì, nel senso, credo che questo sia uno degli aspetti fondamentali, nel senso che significa la valorizzazione delle persone, no? Il termine si riferisce anche a Maritain, insomma, cioè c'è tutta una tradizione alle spalle, però è la valorizzazione della persona che è estremamente fondamentale, quindi non solo deve essere libero di creare, ma cioè anche la parola libero è importante, insomma non è solo la creazione, ma essere libero di creare e quindi essere agevolato, essere aiutato ogni volta che c'è un desiderio di creazione. Intendendo per creazione ovviamente non il grande quadro, la grande pittura, eccetera, oppure l'opera d'arte meravigliosa, eccetera. Però senza escluderla, ovviamente. Senza escluderla, però significa proprio l'immaginazione, significa le capacità personali, significa le capacità di relazione. Che il sistema industriale nega per quello che c'è. Che il sistema industriale cancella sostanzialmente, cancella. O ammette solo per sfruttarle, dal copyright Le ammette solo nel momento in cui riesce a trasformarle in prodotti. In merci. Cioè la mercificazione è chiara. E quindi vengono, quando uno va a vedere, in realtà appena uno va a vedere i singoli, dalle mostre ai meccanismi dei premi o qualunque altra formula, appena non c'è più appena uno ci guarda attentamente, non è più una tutela della la salvaguardia dell'attività di creazione, dell'attività umana. Infatti, aspetta, stavo pensando, c'era un'altra frase. Sì, perché siamo... Ecco, lui c'ha un punto che è abbastanza importante, che si chiama, a cui dedica parecchie pagine, che si chiama il monopolio radicale, e di cui dà una definizione precisa, che non è soltanto il monopolio tenuto da un'impresa, quello di cui dice questo, c'è tutta la legislazione che cerca di bloccarlo, non ci si riesce mai, dice, però c'è una cosa importante. E la definizione è, ci si trova in questa situazione quando un bisogno si trova senza possibili alternative nel bisogno forzato, nell'acquisto obbligatorio di un bene di una certa marca, in quel momento si installa il monopolio radicale, cioè la necessità industrialmente creata di servirsi di un dato tipo di prodotto. Quindi lui fa una lettura del monopolio e del controllo del mercato, insomma, diciamolo più in generale, tutta basata sulla forzatura sull'uomo, cioè ogni volta che viene cancellato la possibilità dell'essere umano di scegliere fra una cosa e l'altra, si installa un qualcosa che è più del monopolio economico normale che noi conosciamo, che insomma c'è una letteratura sopra, e dice c'è un approfondimento tale per cui l'essere umano è impedito di manifestarsi. E quindi vuol dire che lui cercava di sottolineare molto questi aspetti in sostanza, no? Quindi la creatività comprende anche questo tipo, per questo sono tre principi che vengono citati insieme, perché anche la sopravvivenza, cioè la libertà dal bisogno, la tutela dei bisogni fondamentali, devono essere parte di questa liberazione della persona e quindi anche delle sue capacità creative. Ecco, forse libertà dal bisogno mi sembra un termine comprensivo delle potenzialità positive piuttosto che sopravvivenza. Sicuramente Illy ce l'ha spiegato diffusamente, però certo. Detto semplicemente così sembra quasi un livello di mera sussistenza, no? Quindi un livello molto basso, invece lui lo intendeva come... Sì, però bisognerebbe anche cominciare a discutere questo termine, lo discuteremo nelle prossime trasmissioni, perché qual è il livello? Cioè come si definisce? Cioè il livello di sussistenza in una tribù nomade nel centro dell'Africa è un certo livello. Certo. Il livello minimo in un paese occidentale è sicuramente molte, molte volte più alto di quello. Allora, qual è quello giusto? Quindi non significa costruire i palazzi nel centro dell'Africa, no? Oppure fare un'autostrada che attraversi tutta l'Africa, perché così possono avere anche l'automobile. Il problema è un altro, il problema è tenendo conto delle risorse disponibili, come si fa a equidistribuirle. Quindi il problema della, come posso dire, della povertà della, del termine sopravvivenza, siamo noi che l'abbiamo inventata, no? Cioè siamo noi che abbiamo attribuito a questo termine proprio il discorso proprio base, no? Cioè quello che lotta per, la, per vivere, per non cadere morto, no? Mentre invece qua quello che significa è soddisfazione dei bisogni fondamentali, quindi anche con una certa, non un'abbondanza eccessiva, non un, però con la soddisfazione di tutti i bisogni. Tra tutti i bisogni c'è anche la capacità creativa, quindi significa anche una certa larghezza, no? E vabbè, allora siamo arrivati alla fine di questa puntata di Entropia Massima. Abbiamo parlato di decrescita, di convivialità con i Vainilic. Vi ricordiamo ancora una volta il nostro spazio sul sito www.ondarossa.info. Cercate in palinsesto la trasmissione Entropia Massima, troverete lì gli aggiornamenti. Ci vediamo quindi lunedì prossimo alla stessa ora, alle 20:15. Ci sentiamo lunedì prossimo alle 20:15, sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.